Qui sono d'accordissimo, viva lo sport che è vita, viva lo sport che è vita. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sabonoschi, Cannavaro! Cannavaro! E il contropiede con Totti! Dentro il pallone per Girardino! Girardino la porta nera anche vicino alla bandierina! Cerca il 2 contro 1! Girardino! Dentro Del Piero! Del Piero! Del Piero! Andiamo a Berlino! Uno spettacolo! Siamo ripartiti alla grande! Pierluigi Pardo che è collegato, ciao Pier. Ciao. Senti, in questi giorni ci stiamo sfondando di partite che abbiamo visto un po' di tempo fa, no? Chiamale se vuoi emozione indifferita o gioia prolungata nel tempo, fate voi. Alex Del Piero, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Alex. Pier, tu... From California. USA. E la prima domanda, la seconda domanda, perché la prima in realtà per Alessandro Del Piero è questa: state giocando ancora voi del 2006 un'altra partita, diversa e fuori dal campo, no Ale? Sì, grazie. Non solo noi, tutti quelli che fino ad oggi ci hanno unito in questa raccolta fondi a favore della Crociera Italiana, noi come tanti altri, insomma, cerchiamo di mettere in campo insomma quelle che sono le nostre qualità, compreso anche in questo caso il fatto insomma di essere conosciuti anche a livello internazionale e cercare di chiedere così sostegno dai nostri tifosi, soprattutto in giro per il mondo, visto che comunque in Italia stiamo soffrendo già parecchio, quindi questo è un po' lo scopo, cercando di aiutare l'internazionale della Croce Rossa Italiana, che insieme alla protezione civile, agli ospedali, a tutti i militari, operatori sanitari, insomma le persone che veramente, rimanendo in tema calcistico, stanno facendo la vera partita e che sono i nostri titolari, ecco, diciamo così. Sì, bellissimo. Ale, ci dai qualche dettaglio proprio pratico, operativo, su come poter partecipare a questa iniziativa e poi se ci racconti com'è la situazione in California, nel senso che questo virus, lo sappiamo, si muove velocemente da est a ovest, dall'Asia all'Europa, adesso all'America. Esatto. Ma noi abbiamo una chat comune da quando insomma abbiamo vinto il mondiale, dove abitualmente scherziamo sulle avventure di ognuno di noi, no? Chi inizia ad allenare, chi finisce di allenare o altre situazioni simpatiche. Poi ci sono anche temi che tocchiamo in maniera più importante, che riguardano un po' tutti noi o qualcuno di noi. In questo caso ci siamo uniti per appunto questa raccolta fondi, stiamo promuovendo attraverso soprattutto i canali social, che sono le cose che oggi uno consulta magari un po' di più e arriva a persone di tutto il mondo, quindi sui propri profili Instagram soprattutto o Facebook o altro, dove da lì insomma abbiamo tutte le informazioni possibili per poter spiegare quello che è il nostro progetto. E poi ovviamente grazie anche a voi in questo caso, che possiamo parlarne anche a livello di radio o eventualmente con le televisioni, insomma cercare il più possibile di promuovere questa iniziativa. Per quanto riguarda la California, noi siamo partiti, come penso sappiate, un po' in ritardo rispetto agli altri, è stata un po' sottovalutata questa cosa, adesso arrivano numeri un po' più preoccupanti, di una crescita molto molto rapida dei contagiati e non lo so, mi auguro che città come Los Angeles, che è molto ampia, no, come territorio, possa consentire di rimanere distanti a sufficienza, però anche qui insomma tutto è chiuso, io ho un ristorante, abbiamo chiuso, palestre chiuse, uffici non necessari chiusi, quindi la vita si è proprio cambiata radicalmente. Poi io ovviamente da italiano, seguendo quello che è successo in Italia, sono partito prima. Perché certo, questa quarantina l'abbiamo cominciata un po' prima e siamo casa, tutto il tempo si riesce per fare la spesa. Le scuole sono chiuse ormai da 15 giorni e saranno chiuse almeno fino a tutto aprile, quindi c'è un grande punto di domanda, no, sul dopo, però sì, adesso è talmente impegnativo il presente che meglio concentrarsi su questo, ecco. Beh, l'opinione pubblica americana ci ha messo un po' più di tempo a capire com'era la situazione, immagino anche la gente per comune ci abbia messo un po' più di tempo in America. Beh sì, poi sai, qui più che da altre parti ci sono differenti culture, origini, abitudini, città, certo. Lei poi è una città molto molto varia in tutto, quindi adesso parlo di poco prima del messaggio di stare in casa, vedevi gente o totalmente bardata con mascherine e guanti, cioè, o gente totalmente tranquilla a fare la propria vita, perché ancora non c'era la comunicazione che c'è oggi sulla preoccupazione del contagio, no? E infatti si cominciano anche alcuni ospedali qua ad essere abbastanza pieni, e poi c'è il sistema sanitario che è un po' diverso dal nostro. Chiaro, chiaro. Certo. È uno dei problemi. L'Italia è fantastica, che ha testato tantissime persone fin da subito, senza caricare economicamente, qui molte volte senza assicurazione, se non ti puoi muovere. Un po' diverso, ecco. C'è tutta la polemica sull'Obamacare, no? Di una decina d'anni fa, sull'assistenza sanitaria che non è gratuita, insomma è un bel problema, ma la cosa impressionante è come poi tutto il mondo e il paese, finché non hai proprio fisicamente il problema dentro casa, pensi che sia qualcosa di molto lontano. Senti, la stagione sportiva, raccontacela da sportivo, perché è un unicum questo, cominciare una stagione e a un certo punto ovviamente tutto quello che viene fatto quasi perde senso. È lo stesso discorso degli atleti olimpici che da 48 ore sanno che dovranno rimandare le loro aspirazioni di un anno. Sì, cioè, nel senso, con la stagione in corso, immagino, io purtroppo la vivo un po' da fuori, no? Ma immagino se un po' gli atleti si sentano un po' spaesati. Adesso stanno aspettando di sapere che cosa accadrà, se si ricomincia, e quando si ricomincia più che altro, perché poi la priorità deve rimanere la salute di tutti, no? E magari per gli olimpionici ovviamente uno ha aspettato quest'estate come momento della vita, dovrà aspettare un altro anno, ecco. Quindi spostare tutto di un anno, non dico che sarà più facile per loro, non posso dirlo, non ho le basi per poterlo dire, però è diverso. Per quello che è in corso, niente, bisogna aspettare decisioni di chi è a capo. Trovo assolutamente giusto spostare sia le Olimpiadi che gli europei, sono state due decisioni arrivate relativamente presto, devo dire, no? E molto sensate, ecco, per far sì che insomma tutto abbia un senso, ecco. Certo. Ale, un altro interrogativo che da diversi giorni ho fatto questa domanda a molti personaggi sportivi, anche ieri con Pierluigi: il giorno della ripresa dell'attività agonistica, cosa passerà per la testa di un giocatore di calcio? Immagino che possa essere quasi come il ritorno da un infortunio, quindi magari ci sarà quel filo di timore iniziale. Io credo che più che questo, spero, mi auguro che sopravvaglia insomma la gioia di tornare finalmente a giocare, no? Che è quello che spinge ogni giocatore a iniziare questa carriera, a sognare questa carriera e quindi a dimostrare che è lì per un senso suo interiore prima di tutto, e poi per i tifosi, per la competizione, eccetera eccetera. Più che il timore, sì, ci sarà un po' di timore magari in alcune situazioni, però sai, l'atleta di per sé è forte, è giovane, prende la competizione o comunque il problema come qualcosa da superare, quindi se si proietta con queste idee e caratteristiche dirà ok, ora è tutto a posto, vado al 100%. È ovvio che ci sarà un po' di rodaggio, ma quello solo dal punto di vista psicologico, secondo me, anche fisico. Sai, per quanto uno si possa allenare a casa, è sempre a casa, in campo diverso, le distanze, le misure, la velocità della palla. Sì. Beh, questo è bello però, Pier, prevarrà l'agonista che c'è in ciascuno di loro, non sono, no, ma io, non sono come io noi dal punto di vista emotivo tutti anche. Una voglia extra, no? Che questo stato di ansia, di agitazione e di chiusura di queste ore siano tutte energie immagazzinate che faranno esplodere la voglia di sport, di passione, di vita in maniera ancora più clamorosa dopo, però ha ragione Ale, non sappiamo, siamo talmente concentrati sul presente che non possiamo pensare al futuro, ma è ovvio che il futuro dipende dalla scienza, perché insomma oggi immaginare uno stadio di 80.000 persone pieno, anche fra un po', bisogna vedere che fa questo virus, no, che fa questo maledetto virus. Chiaro. No, un'altra cosa, un'altra considerazione che abbiamo fatto nei giorni scorsi, sai che ti ho ripetuto anche ai nostri interlocutori, Pier, quello che ci aveva detto Ettore Messina, ricominciare quando ci saranno tutte le condizioni possibili. Secondo me si ricomincerà invece senza il pubblico sugli spalti, si va verso questo scenario, condivisibile questa prospettiva, Ale, ricominciare appena possibile in condizioni di sicurezza ma senza la componente pubblico. Certo, ma allora con tutto quello che c'è attorno al movimento, prendiamo il movimento calcistico, no? Che in Italia è più importante sotto molti punti di vista, soprattutto quello economico, perché poi molte cose sono dettate anche da quello, no? È sicuramente in questo momento qualcosa da prendere in esame, no? E da valutare, sempre che tutto sia. Però sai, non è neanche semplice garantire a un giocatore o agli addetti ai lavori che sarà tutto ok allo stadio, e sarà tutto ok allo stadio, però quando torna a casa, quando va in giro, non è semplice, ecco, voglio dire, attorno poi a una squadra di calcio ci sono tutta una serie di professionisti, operatori di vario livello che tutti quanti hanno famiglia, vogliono rivedere, adesso penso ai giocatori dell'Inter, no, che leggevo che finita la quarantena sono partiti per ritornare dalle loro famiglie, giustamente. Sì, sì. Il viaggio è ancora un pericolo anche per certi aspetti, no? Gli alberghi. Gli alberghi, gli aerei, quello che è. Quindi non è semplice. Speriamo molto nella scienza che possa trovare le soluzioni quanto prima, che quello sarebbe il bene per tutti prima di tutto. E poi, sai, se ci sono le condizioni che un inizio così possa garantire la fine del campionato e lo spettacolo anche su in TV, voglio dire, perché poi la fine del calcio è anche, lo vivi tanto anche dalla televisione, no? Certo. E potrebbe essere un momento anche di passatempo per tutti, certo, i tifosi che sono a casa, aspettare, pensare, vedere, giudicare e allenare la propria squadra. Come sicuro, sarà un elemento importante, questa è la ragione Pierluigi, sarà una qualcosa di particolarmente sentito. Una partita di metà classifica, so che darei per avere una partita di metà classifica di Serie B a porte chiuse in un momento come questo, sarebbe comunque uno svago, ha ragione Ale, cioè lo sport avrà poi un ruolo che sarà fondamentale per ridarci energia. Senti, ma la chat è ancora operativa, la chat dei campioni del mondo? Non voglio sapere i messaggi privati, però insomma... Oggi più che mai ci sono molti messaggi quotidiani, perché stiamo seguendo un po' tutti quello che è, certo, la situazione, ecco, quindi le varie attività da fare, ecco. Attento perché parte un insider, Poi divulga notizia a Vieri Cassano. Credo che sia la chat delle miliardi di chat WhatsApp che ci sono in Italia, credo che sia la più ambita, perché insomma la chat dei campioni del mondo del 2006 è proprio, sì, sì, credo è sia un club esclusivo al primo posto. Passando al campo, Ale, Mancini ha convinto sul campo, chiave azzurra ovviamente, e ora ha convinto secondo me anche nella comunicazione, perché da lui sono venuti messaggi in questo periodo messaggi di grande equilibrio ma anche di grande ottimismo. Ma sì, ma Mancini come allenatore ha fatto una carriera incredibile, nel senso che è sempre andato migliorando, e oggi ha dato segnale con la nazionale in una situazione non facile per nulla, di dare sostanza, qualità, risultati, sono tre cose fondamentali in ogni ambiente calcistico, quindi è stato molto molto bravo e ha dimostrato ovviamente leadership, che è un altro qualità che è fondamentale. Io credo che abbia, insomma, tutti i scetticismi iniziali, se non riguardavano solo lui, la squadra, i giovani, chi c'è, chi non c'è, sono stati abbattuti oggi e c'è di nuovo un grande entusiasmo per un gruppo di giocatori che ha fatto un percorso fino ad oggi fantastico, cioè non si può dire nulla. Assolutamente. Io ti chiedo ancora una cosa, per quanto riguarda la tua valutazione invece su fronte bianconero la Juventus vista fino allo stop. Dipende dal punto di partenza, perché se uno pensa a quello che la Juve ha fatto in questi anni dici cavolo, niente di nuovo, nel senso che però quel niente di nuovo rimane essere primi in classifica e comunque essere in condizione della Champions League di passare il turno, anche se il primo round è stato non positivo, diciamo così. Poi in tutto questo si parla tanto del gioco di Sarri e di tutte le situazioni che ci sono attorno. È ovvio che per quello serve tempo, servono allenamenti e la Juve comunque in una stagione normale ha talmente tanti impegni che non è semplice. Quindi non mi meraviglia se ogni partita la Juve non faccia un gioco stellare, perché poi dipende anche dalle qualità dei giocatori, dalle caratteristiche, scusami, non dalle qualità dei giocatori. Quindi è una cosa complessa. Di sicuro la Juve continua a dare una grandissima solidità, che penso questa sia la priorità del club, di essere sempre tra i primi, se non il primo in Italia, e di partecipare alla Champions League con continuità, che sono cose fondamentali a livello anche di business e di immagine, e di avere qualità per poterla vincere, perché poi quello è l'obiettivo finale e principale, la Champions League. E anche quest'anno, come negli anni precedenti, devo dire, ha le qualità per poterlo vincere. Poi insomma è molto difficile e complicato, perché subentrano talmente tanti fattori che non basta sulla carta far tutto perfetto, ecco. Sicuro. Non so se però chiedere ancora un'ultima domanda per Alex. Ti chiedo proprio una domanda finale sull'Atalanta, perché credo che veramente questo periodo Bergamo stia vivendo ovviamente giornate complicatissime, un dolore incredibile. Sappiamo, abbiamo letto anche che quel famoso Atalanta-Valencia prima del primo caso italiano potrebbe avere in qualche modo contribuito, per ora è solo un'ipotesi, alla diffusione del virus. E poi c'è l'aspetto sportivo, ed è veramente un destino terribile quello di Bergamo in questi giorni, a fronte di una squadra che sta rendendo orgogliosa la città. Ecco, io vorrei una tua sottolineatura sul lavoro che sta facendo questa squadra, che è enorme, fra le prime 8 d'Europa, e ovviamente le auguriamo di andare avanti e le auguriamo che ci possa essere una Champions che possa finire, perché vorrebbe dire che la situazione in qualche modo si stabilizza. Ma guarda, io dovrei solamente unirmi, se non metterci il carico, come si dice, no? Per aumentare esponenzialmente, ecco che mi è uscita, la bravura del club e di tutto quello che dei giocatori, dello staff che hanno messo in piedi, perché è da anni che l'Atalanta sta facendo molto bene sotto molti aspetti, quest'anno più di altri. L'Atalanta ha le palle, niente gira attorno. Bergamo come città, io ho alcuni amici che sono da lì, sono gente tosta. Oggi il fatto che vivono come altri, magari più di altri, è un momento complicatissimo, li farà unire ancora di più se ce n'è bisogno, perché sono sempre stati molto forti in questo e ci auguriamo che ne escano non solo sportivamente, no? Anche come area, come zona, alla grande. Sì, non è una sorpresa, perché poi il lavoro che stanno facendo da tanti anni è molto buono, quindi è orgoglio, diciamo così, quello che viene trasferito, e in questo sono stati veramente molto bravi, ci auguriamo che possano finire alla grande, sì. Grazie Ale, grazie davvero. Grazie. Un abbraccio forte da questa parte dell'oceano. Grazie a voi. Ciao Alessandro. Grazie. A presto Ale. Ciao. Ciao. Stay home. Sono un combattente, quindi l'idea di arrendermi in questo momento non ci penso neanche lontanamente. A costo di chiedere un supporto delle massime istituzioni internazionali, andando anche oltre quella famosa deadline del 30 di giugno, quindi in luglio, eventualmente anche in agosto, noi dobbiamo pensare che il calcio si basa sempre sul valore dell'agonismo, quindi dobbiamo far sì che ci sia comunque alla fine il verdetto del campo. Questo era Gravina, dopo che abbiamo parlato con Del Piero, Pierluigi Pardo. Questa era Gravina che è intervenuto ieri a Radio Marte, oggi di nuovo a Sky, ribadendo più o meno gli stessi concetti. Vabbè, fino a quando non sarà possibile giocare la partita 1, non è possibile stilare un calendario, però si sono fatte strada, avrei letto Pier anche il Corriere dello Sport di oggi, ad esempio. Allora, obiettivo finire la stagione. Il 30 giugno impossibile. Priorità ai campionati nazionali, poi l'estate caldissima delle coppe che potrebbero finire oltre la metà di agosto. Ciao Andrea Ramazzotti. Buon pomeriggio a tutti, ciao Pier. Ciao. Senti, in questo momento Pier deve essere tutto molto creativo, ma una deadline bisognerà pure tracciarla. Il problema è la deadline di entrata, non quella in uscita, penso che il problema della vicenda è che non sappiamo quando si ricomincia. Io credo che da un certo punto di vista le competizioni internazionali, se un po' conosco l'UEFA, invece abbiano la priorità, però penso anche che, anche perché sono meno partite, però penso anche, come diceva stamattina, abbiamo fatto una lezione, detto così, allo Yulm con la mia squadra di ragazzi, con Federico Ferri e Omar Schillaci, che da un certo punto di vista invece ci sarà soprattutto il desiderio di salvaguardare i campionati nazionali, che però sono più partite, quindi è tutto estremamente difficile, estremamente complicato. Io faccio fatica perché al di là della deadline in uscita il problema è la deadline in entrata. Beh, cioè quando si ricomincerà a giocare la partita 1 come si diceva prima, e poi come diceva giustamente Federico Ferri stamattina, insomma non credo che sia una informazione così riservata, è più facile immaginare una ripresa magari a porte chiuse in un contesto nazionale piuttosto che grandi manifestazioni con gente che si muove da un paese all'altro. Questo è condivisibile. Un tema di frontiere, nuovamente c'è un tema di frontiere sicuro, tra un paese e l'altro, e poi anche paradossalmente noi siamo il paese in Europa dove è cominciata prima questa cosa, quindi è lecito sperare che possa finire prima da noi. Quello intuitivamente è condivisibile, Andrea. Sì, ho detto tutte cose condivisibili. Secondo me la data, l'ultima data utile, premesso che il calcio non decide quando ricominciare, perché lo decide il Ministero della Salute in Italia come in tutte le altre come in tutti gli altri paesi coinvolti, l'ultima data utile per ricominciare questa stagione paradossalmente verrà decisa dalla prossima stagione, e vi spiego perché la prossima stagione inderogabilmente non potrà finire oltre il primo giugno, perché gli europei sono già stati rimandati una volta e quindi non possono essere rimandati oltre, perché nel 2022 da novembre a dicembre c'è pure il mondiale, quindi la prossima stagione inevitabilmente dovrà iniziare, avrà una data limite di inizio. In questo momento, ipotizzando che tutti, che prima inizino i campionati, riprendano i campionati e poi siano concluse le coppe europee dal 15 luglio in poi fino alla terza settimana di agosto, la prossima stagione inizierebbe il 12 settembre. È chiaro però che oltre non si può andare oltre all'infinito. Ci sarà un momento in cui, se purtroppo il virus non si arresta e non si può tornare a giocare, bisognerà arrendersi, l'ha detto anche Gravina. Sì, e siamo tutti d'accordo, riparto da te Andrea, sul discorso: si dovesse finire qui, tanto vale mettere una riga su questo campionato, cioè nel senso non assegnare il titolo, poi vediamo promozioni, retrocessioni, chi va in Europa, eccetera. Però l'assegnazione dello scudetto rebus sixtantibus non mi sembra praticabile, e credo che Gravina la pensi allo stesso modo. No, guarda, io posso dirti la mia sincera verità: sono contento di non dover prendere questa decisione, di scrivere di quello che altri decideranno, perché secondo me la cosa dello scudetto, ma anche mi immagino le promozioni, retrocessioni, faranno discutere molto, ci saranno ricorsi. Io credo che ipotizzare quello che stiamo ipotizzando, che ha ipotizzato anche qualche addetto a lavori, qualche dirigente, ovvero la prossima Serie A 22, quindi con le due promozioni dalla Serie B, giustamente per tutelare il Benevento, che è un vantaggio incredibile, la Serie A 22 non finisce mai. però non finisce veramente mai. A me sembra complicata anche quell'ipotesi lì, poi ripeto, grazie a Dio non decido io. Non sorprendo, sì, vai Piero. Tutte le ipotesi, premesso che non c'è un'ipotesi giusta, perché il playoff non sarebbe giusto, ma anche interrompere un campionato qui, andateglielo a dire alla Lazio o all'Atalanta per quanto riguarda la Champions, dire, non è proprio la soluzione ideale, non esiste. Quindi o si riesce, ma ripeto, è abbastanza difficile in questo momento a recuperare rapidamente, quindi a poter chiudere il campionato con le 12 partite che mancano, oppure secondo me a quel punto è molto più sano e molto più corretto magari guadagnare tempo e promuovere il Benevento, che ha 20 punti sulla seconda, e credo insomma non ci sia grande discussione, fare un playoff in Serie B, fare un campionato l'anno prossimo eccezionale a 22 squadre cominciandolo prima, e poi magari ovviamente facendo 5 retrocessioni oppure 4 retrocessioni e 2 promozioni, cioè tornare a 20 poi nell'anno successivo, perché sono d'accordo che una Serie A 22 squadre diventa, e ce ne siamo accorti quest'anno con il calendario affollato, diventa complicatissima, però dico francamente sono d'accordo con te Carlo, cioè in questo momento lo scudetto non lo so, poi vabbè io non sono coinvolto, quindi capisco che ci siano altri interessi, cioè a me in questo momento gusti personali, sensibilità personali, cioè gli scudetti per me, sai come la penso in assoluto, gli scudetti veri sono quelli che uno vince, che può festeggiare per la gioia che gli dà quel momento lì. Poi il resto è chiaro che ci sono regole, norme, per carità, va benissimo, è giusto che vengano assegnati, ma in questo momento è fare dalla Juve perché c'è il vantaggio sulla Lazio, boh, non lo so. Non credo neanche che gli stessi tifosi della Juve, ho sentito Zampini l'altro giorno, conto è se si riesce a finire la stagione con le 38 partite e allora lo vince chi ha fatto più punti, ma così non ci sia nessuno cui freghi qualcosa, no? Tra i tifosi della Juve di festeggiare, di impilare anche questo scudetto, di incasellare anche questo scudetto. Vabbè ragazzi, grazie. Piuttosto, secondo me i tifosi della Juve, non solo loro, sono interessati alla Champions League, nel senso che lì magari c'è uno scenario, riguardo ovviamente anche l'Europa League, c'è uno scenario di partite molto più breve, poi ti ripeto, dipende tutto, magari fra 15 giorni siamo tutti, me lo auguro di cuore, tutti più sereni, ti ricomincia inizio maggio e si riesce a finire il campionato, però le formule creative non mi fanno impazzire, il playoff tanto per dire, nemmeno me. Allora veramente assegniamolo a Bergamo, neanche all'Atalanta, assegniamolo ad onore, come diceva qualcuno, lo assegniamo all'Atalanta come valore simbolico per questa squadra, ovviamente per questa città che sta soffrendo così tanto, ma è chiaro che non è lo scudetto per come siamo abituati a conoscerlo, purtroppo. Grazie ragazzi, ci sentiamo domani con te Pier, con Andrea Ramazzotti, al prossimo giro di pista. A proposito di pista, subito dopo la borsa affrontiamo il discorso mondo del motomondiale. Ah, come gioca Del Piero. Ma quando tornerai alla Juventus? Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Si potrebbe anche provare a fare un campionato magari di 12-13 gare, penso che sia il limite minimo per un campionato del mondo di moto, perderne 7 ma farne 13 fatte bene tenendo il format della MotoGP. La tua Ducati numero 9, cos'è che ti manca di più? Mi manca innanzitutto andarci a fare un giro. Quando vai a stringere, tutto quello che fai durante il giorno lo fai per lei. Vicino a casa ho un capannone dove tengo tutta la mia roba e ho la palestra, quindi riesco a svagarmi un po' e ad allenarmi, quindi non ho perso nessun giorno di allenamento, però devo ammettere che questi giorni a casa ci hanno fatto mettere a posto un bel po' di roba, che avevo un gran bel casino. Cerchiamo di vedere il lato positivo sperando che non duri troppo. Al serio e faceto Valentino Rossi, Petrucci e Dovizioso. Ieri abbiamo fatto un lungo giro nel mondo del ciclismo con Davide Cassani e Delia Viviani. Oggi voglio farlo in un altro mondo che molto vicino al cuore mi sta, cioè quello del moto mondiale. Notizia di oggi, tutt'altro che sorprendente, il fatto che sia saltato anche Jerez, Gran Premio di Spagna, il 3 di maggio. Rimane molto teoricamente operativo Le Mans 17 maggio, sappiamo però che la 24 ore di Le Mans in programma a metà giugno è stata rinviata. Ora, un inizio anche qui, come nel calcio e in tutti gli altri sport, non si vede, ma qual è lo stato dell'arte e quali sono le prospettive future? Ciao Carlo Pernat. Ciao Carlo. Ciao Fausto Gresini, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. E dal muretto della Ducati, oggi virtuale, Paolo Ciabatti. Ciao Paolo. Ciao Edua Carlo, ciao Fausto. Ciao. Guarda, ciao. Parto direttamente da te Paolo. Jerez saltata, Le Mans 17 maggio salterà per forza di cose, la data d'inizio non si vede, ma ti chiedo quanto spazio c'è, quanta elasticità c'è per un calendario creativo a questo punto? Ma vedi Carlo, in una situazione come questa, eccezionale e totalmente inaspettata, credo che bisogni aspettare di capire quando la situazione, speriamo fra non troppo, incomincerà ad avvicinarsi a una quasi normalità e poi prendere decisioni di conseguenza. Noi in principio avevamo un mese di luglio con poche gare e potrebbe essere, anche se io temo che sia troppo presto, onestamente, personalmente, per come vedo lo sviluppo della situazione, per come vedo che la Cina sta tornando lentamente alla normalità, avendo preso misure diverse rispetto a quelle che si possono prendere qui in Europa, io non penso che si potrà iniziare prima di settembre, spero di sbagliarmi, e a quel punto bisognerà capire quante gare si possono fare e credo che, anche se il regolamento dice che per essere un campionato mondiale devono esserci 13 gare, vista la situazione assolutamente eccezionale, la federazione possa cambiare anche questo tipo di norma e capire che cosa è ragionevole fare per salvare una stagione che comunque è compromessa. Ma io credo che tutti voi sareste d'accordo nel festeggiare Natale, magari pure Capodanno in pista, no Fausto? Sì, certo, ovviamente andrebbe bene pur di fare le gare. Io credo che ciò che abbiamo bisogno di fare oggi è un campionato. Sono convinto che non finirà qui, nel senso che abbiamo ancora molto tempo da attendere, purtroppo, credo, e dovremo capire quando iniziamo veramente, quando si potrà, ma finché questo virus non verrà controllato non saremo in grado di fare pronostici. Sì, nemmeno dal punto di vista della creatività, Carlo? Ma sai, è difficile perché è tutto in stand-by. Io però metto un punto, a mio parere, abbastanza favorevole alla Dorna. Carmelo ha lavorato molto bene, pur se si parla di lavorare in questo momento dove c'è questo caos, perché è l'unico che ha spostato tutti i gran premi a fine campionato. Cioè ha spostato gli Stati Uniti, la Thailandia, l'Argentina, tutti spostati nel mese di novembre. E quindi ha fermato i circuiti, questa è una gran cosa. E io prevedo, sono un po' più ottimista di Paolo, io penso che luglio-agosto si potrebbe incominciare, mi auguro, voglio essere ottimista perché lo sono nel mio modo di essere, però credo che Carmelo abbia fatto un bel lavoro spostando tutti questi gran premi in fondo e quindi sono già posti presi da ma noi. Non c'è una deadline finale, no, per questa stagione? No, io guarda, io come sportivo l'ha detto bene Fausto e lo pensa anche Paolo, noi sportivi pur di fare il campionato mangerai anche il panettone in Qatar e farei Capodanno anche in Qatar per un'altra gara. Io credo che l'unica strada percorribile, se tutto passerà, è quella che Carmelo ha fatto un ottimo lavoro. Era chiaro che questo mese, il mese prossimo, le Jerez, Le Mans e probabilmente Mugello non si possano fare. Questo era nell'ordine delle cose, ragazzi. Certo. Paolo, ti chiedo se sei d'accordo con quanto ha detto Carlo Pernat e ti aggiungo, come state lavorando ora? Ora so che le moto sono ancora fisicamente in Qatar, devono essere riportate qui nei loro contenitori. Cosa non c'è, come nella Formula 1 c'era il problema cambio del regolamento, quindi bisogna che poi è saltato, bisogna definire anche una prospettiva di lavoro futuro. Ora, com'è il modo di lavorare? Poi lo chiedo anche a Fausto Gresini in questi giorni. Che cosa si sviluppa la moto esistente? C'è la possibilità di usare, e so che Fausto su questo punto avrà qualcosa da dire, la stessa moto per due stagioni. Che succede? Ma cosa succede? Vorrei potertelo dire, ma sinceramente non lo so. Ducati è chiusa ormai da più di una settimana, per cui lavoriamo da remoto e smart working, ma è chiaro che tutta una serie di attività non possono essere fatte. Chiaramente i lavori al banco per i motori non possono essere fatti. A questo punto è stata saggia la decisione comunque di congelare lo sviluppo dei motori, perché ci saremmo trovati noi costruttori europei in una posizione di svantaggio rispetto ai costruttori giapponesi, perché in Giappone almeno per il momento non è assolutamente bloccato niente, la gente continua a vivere in modo quasi normale, i ristoranti sono aperti, le aziende sono aperte, quindi non sarebbe stato corretto. Quindi ottima la decisione di bloccare lo sviluppo dei motori e anche quello dell'aerodinamica per le case che non hanno le concessioni, cioè tutti meno Aprilia e KTM. Per il resto sono d'accordo con Carlo sul fatto che bisogna essere creativi e che noi siamo disposti a correre anche il giorno di Natale in Qatar o dove ci sarà consentito di andare. Ho qualche perplessità solo perché sto seguendo molto attentamente i dati di questa pandemia, che ci sarà tutta questa libertà di muoversi da un paese all'altro, quando ci sono paesi, ad esempio come gli Stati Uniti, che stanno subendo adesso un incremento spaventoso del numero dei contagiati e che non sappiamo quanto ci metteranno per uscire. Però questo è fuori dal nostro controllo, quindi credo che la Dorna abbia fatto bene a bloccare delle date verso la fine del campionato per poter disputare su quei circuiti di Gran Premio, ma a questo punto bisogna capire quando i numeri, che in questo momento ad esempio oltre che in Italia e in Spagna sono spaventosi, cominceranno a ridursi e quindi si potrà fare una previsione ragionevole su quando la gente potrà muoversi con una certa libertà e in sicurezza, soprattutto perché lo sport va bene, ma soprattutto la salute delle persone. Questo è chiaro. Poi vi chiedo anche un'opinione sulla possibilità di un mondiale sterilizzato dal punto di vista presenza del pubblico e di quant'altro. Però ero curioso di sentire Fausto Gresini sul tema sviluppo delle moto. Mi sembra che tu abbia detto usiamo la stessa moto per 2 anni. Beh sì, diciamo questa è un'ipotesi così, per capire. Chiaramente abbiamo un problema più generalizzato, più grande, che è un problema anche di carattere sicuramente anche economico, uscirà e sta già uscendo, perché ovviamente non facciamo le gare, ma tutto non è solo questo, ma diciamo tutte le aziende vivono un po' questa situazione di emergenza e quindi di difficoltà, quindi avremo sicuramente meno supporti, ma e tutto questo ovviamente dovremmo essere molto più creativi per il nostro futuro. Sicuramente il voto del moto mondiale anche cambierà inesorabilmente per questa cosa, quindi dovremmo capire come cambierà e quali sono le misure da adottare. Credo che avremo un percorso lungo da fare per molto tempo e quindi in più credo anche che prima di iniziare a fare le gare, ovviamente noi siamo un piccolo paesino che ci muoviamo nel paddock, ma che rappresentiamo un po' tutto il mondo, quindi avendo gente di ogni nazionalità ovviamente diventa molto più difficile controllare diciamo la gente, quindi finché non c'è un controllo di questo virus sarà difficile poter partire, io credo. Allora ragazzi, un istante di pazienza, traffico, strade, autostrade, torniamo subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Carlo, fronte economico. Giustamente Fausto ha sottolineato le preoccupazioni soprattutto dei team satellite, che possono essere anche preoccupazioni dei piloti. È chiaro che bisogna aspettare che la sabbia si depositi dopo la tempesta, ma tu cosa vedi? Guarda, io tendenzialmente sono un ottimista di natura, quindi io voglio guardare il futuro. Il futuro, io parlo della prossima stagione. E la stagione, secondo me, prossima sarà molto diversa, sarà cambiata. Io credo che la Dorna debba, e lo farà sicuramente, garantire anche non solo la MotoGP, dove dà una certa garanzia. Tu sai che al di là di finanziamenti alle case, paga anche le moto ai team privati, dando una certa cifra che è anche abbastanza alta a pilota. Questa protezione non è fatta per la Moto2 o la Moto3. Io credo che Carmelo debba pensare nel prossimo futuro di individuare una decina di team importanti nella Moto3 e importanti nella Moto2, dargli una garanzia come fa con la MotoGP, garantendogli un numero di soldi necessari per prendere la moto, e una diminuzione di piloti, nel senso che una Moto2 sarà fatta magari di 26 piloti, una Moto3 di 24. Questo permetterebbe anche ai campionati italiani o al campionato europeo, che è il CEV, di avere più risorse, di avere più piloti e magari di dare piloti più forti poi alle categorie superiori. Questo è un mio panorama per il futuro ottimistico e spero che diventi così, ecco. Fausto, sei d'accordo? Sì, in linea di massima sicuramente sì, e credo che comunque ci sarà molto da lavorare, e credo che il problema non sia per il team satelliti, ma sia un po' anche per le case, perché questa pandemia tocca un po' tutti a tutti i livelli, quindi sicuramente ci sarà da rivedere tante cose e quindi pensarla in maniera molto più profonda, e questo è anche un periodo con cui ci dobbiamo misurare su queste cose. Paolo, invece, Ducati, sì, ovviamente situazione è un colosso del mondo, di questo mondo. Sì, è un colosso che però vive vendendo le moto e producendo e vendendo moto, ed è chiaro che in una situazione come quella attuale, in cui le persone in quasi tutto il mondo sono bloccate in casa almeno per 2 settimane, ma durerà di più, e con le concessionarie di moto chiuse, chiaramente le vendite di moto ne risentiranno, le vendite di moto di tutte le case. E quindi sono d'accordo sul fatto, come diceva Fausto, che secondo me il campionato andrà ripensato. Non credo che certi investimenti saranno possibili nelle stesse dimensioni nel futuro, e ovviamente, come vediamo, la crisi economica sta colpendo tutte le aziende di tutti i paesi, e quindi gli sponsor, che sono quelli grazie a cui non solo le case ma soprattutto i team satelliti e i team privati anche nelle categorie minori riescono a sostenere i propri costi, avranno sicuramente degli impatti che faranno sì che questi sponsor non siano in grado di pagare in tutto o in parte gli accordi che avevano preso. Quindi è chiaro che il sistema è sotto una grandissima pressione. Credo che per questo, quando usciremo dall'emergenza sanitaria, dovremo affrontare l'emergenza economica, sì, e anche sì. Il campionato MotoGP dovrà probabilmente cambiare il modo di fare alcune cose. Senti Paolo, tornando al discorso di cui sopra, invece, sarebbe accettabile una formula sterilizzata per questo campionato? Ieri parlavo di Tour de France, ora c'era Viviani che diceva: io ho corso a Parigi-Nizza, per strada non c'era nessuno, i corridori hanno comunque paura perché sono in un gruppo. È possibile pensare ad un mondiale senza pubblico, con le attività ridotte al minimo ed esclusivamente televisivo? Secondo me è difficile per diversi motivi. Come diceva Fausto, il mondo del moto mondiale prevede tante persone di tante nazionalità diverse che comunque vivono a contatto di fatto nel paddock, per cui anche nel momento in cui ci fosse un livello di emergenza sanitaria ridotto, comunque pensare di far spostare da un paese all'altro delle persone di diverse nazionalità, quando vediamo ad esempio sempre in Cina che gli spostamenti sono limitati e monitorati, non sarà così semplice. Per cui non credo che un campionato a porte chiuse solamente con gli addetti ai lavori sia un'opzione praticabile in sicurezza, almeno per come vedo io l'evoluzione nei prossimi mesi. Poi, ripeto, è una situazione eccezionale in cui non avremmo voluto trovarci, e quindi qualsiasi soluzione che ci consenta di tornare a correre, ma in sicurezza per noi, per i piloti, per le persone che lavorano nel mondo mondiale, per le nostre famiglie, perché poi quando noi torniamo dal circuito andiamo a casa, sì. E quindi dobbiamo anche preoccuparci della salute dei nostri cari. E non fa una piega, Carletto. Sì, sono perfettamente d'accordo con Paolo, no, ha ragione. Io sono sempre contrario allo sport a porte chiuse, non è sport. Cioè, lo sport è fatto non solo per la televisione, è fatto per il pubblico, per lo tifoso, per la gente che viene. Io quando ho visto le partite di calcio a porte chiuse ho spento la televisione, credimi, per parlare di un altro sport. Posso immaginare le moto, non, per me è impensabile. Credo che però comunque ci sarà un cambiamento della MotoGP, della moto mondiale, come io prima ho detto. Credo che in mano il gioco lo abbia la donna del campionato, siano loro che debbano, con l'aiuto delle case chiaramente, considerando i problemi delle case, dei team, però deve essere la donna a tirare le fila, sì. Ci vuole proprio un ente supremo che ha dimostrato di essere un ente anche bravissimo, perché ha portato al moto mondiale dei livelli veramente di professionalità molto alta. Certo, un ultimo argomento, signori, vita da piloti in questi giorni. Abbiamo sentito prima Valentino Rossi, Petrucci, Dovizioso. L'altro giorno ho sentito, non ricordo, intervista Dovizioso, diceva: noi piloti siamo settati per correre, quindi stiamo soffrendo come cani, immagino, perché i nostri chip mentali sanno che in questa stagione noi corriamo. Fausto, tu hai fatto il pilota prima di fare il gestore di team. Vita da piloti ora com'è? È difficile, perché è come vedere un leone in gabbia, no? Sì. non è libero, e non poter dare sfogo alle proprie energie è molto difficile. E chiaramente non è facile rimanere a casa, allenarsi e non sapere quando vai a legare. Tutti abbiamo un obiettivo, in questo momento è un obiettivo astratto, quindi fatica anche per un pilota poter assettarsi con questo sistema attuale. Ovviamente dobbiamo aspettare, siamo tutti messi uguali, ma anche noi team manager o comunque tutte le persone che occupano il paddock, credo che siamo tutti nella stessa barca e tutti siamo così, e non vediamo l'ora di capire quando potremo fare qualcosa. Nel frattempo pensiamo molto e cerchiamo di eventuali soluzioni per il futuro. Il problema è che i piloti, se li chiudi in casa e pensano molto, rischiano di bruciarsi i chip. Sono preoccupato per Petrucci, caro Paolo. Mandagli un video, cioè un videogioco. Ci siamo sentiti, lui è a casa con i genitori a Terni. Ovviamente i nostri piloti, ma tutti i piloti, sono abituati sicuramente a fare attività fisica in palestra, cosa che possono fare anche in casa quasi tutti, ma ad allenarsi con il motocross, con il flat track, con altre attività che non possono più fare. Però devo dirti che è ovvio che, come diceva Fausto, la cosa che rende tutto più difficile è non avere una prospettiva, non avere una data, e quindi non sapere quando. Però immagino che anche tutti gli atleti che si erano preparati per le Olimpiadi del 2020 a Tokyo, e che adesso sanno che le Olimpiadi sono spostate di un anno, e ovviamente saranno in una situazione di aver fatto tanta fatica, tanti sforzi per arrivare a un appuntamento importante. Però ieri Elia Viviani ha usato una parola che doveva difendere l'oro vinto a Rio, no? Ha usato una parola importante, ha detto: quando ho saputo del rinvio dei giochi, quello che ho provato in questo momento, viste le difficoltà, è stato sollievo. Carlo, perché comunque c'erano degli atleti che non erano in grado di proseguire nella loro preparazione per arrivare ai giochi olimpici pronti, perché erano chiusi in casa come quasi tutti noi, o tutti noi devo dire, e quindi a questo punto sapere che le Olimpiadi sono a luglio-agosto 2021 ti dà una prospettiva. Quello che noi non sappiamo è se inizieremo a fine luglio, ad agosto, a settembre, quando, e quindi chiaramente mantenere la motivazione per un pilota che è un professionista, ma che, come dici tu, è un leone, come diceva Falso, leone in gabbia, no? Sono tutti lì pronti a partire, ma non sanno quando, e questo sicuramente è una situazione che è complicata da gestire. Però devo dirti che stiamo vivendo, ripeto, tutti quanti una situazione assurda, perché non ci aspettavamo nel 2020 di essere obbligati a restare chiusi in casa per evitare di prenderci un contagio o di trasmettere un contagio ai nostri cari, e dobbiamo solamente sperare e pregare che facendo il nostro dovere riusciremo a limitare il numero dei contagi e arrivare a una situazione in cui lentamente si potrà provare a tornare alla normalità. È quello cui tutti noi stiamo pensando. Grazie, grazie a tutti ragazzi, grazie a Carlo Pernas, Paolo grazie. Ciabatti, grazie a voi. Fausto Grasini. Ciao a tutti. Un abbraccio a tutti. Ci risentiamo quanto prima, è un impegno con tutti voi. Con voi ascoltatori invece ci sentiamo domani pomeriggio alle 2, tutti convocati, grazie a Laura Vanossi e Claudia Schiattone in redazione, a Paolo Corrodori in regia. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.